Italia in controluce. Buongiorno, buon pomeriggio. Oggi è il 16 febbraio ed è la seconda edizione di Italia in controluce, il programma di Radio 24 sulla cronaca italiana. Buongiorno da Daniele Biacchessi. La prima traccia riguarda l'annosa questione delle pensioni di invalidità e l'INPS ha intensificato i controlli sui falsi assistiti. Valeria De Rosa. Revocata una pensione su quattro, o poco meno. Per essere precisi, infatti, quelle cancellate nel 2010 sono state il 23%. Ma com'è possibile che nell'arco di un paio d'anni il numero sia raddoppiato? A spiegarlo è Antonio Mastrapasqua, presidente dell'INPS. Il programma di verifiche straordinarie del 2010 ovviamente ha preso spunto dai risultati del 2009, quindi c'è stata una maggiore capacità dell'istituto, di tutti quanti ovviamente quelli che si sono interessati del problema, di andare a selezionare un campione più mirato, quindi si è andato sia per fasce di età che per localizzazioni, e questo qui ovviamente ha fatto sì che con meno controlli del 2009 la percentuale si è quasi raddoppiata. L'Italia non è tutta uguale, anzi, e anche in questo caso le differenze sono evidenti. In Sardegna la percentuale supera il 50%, poco al di sotto in Umbria, Campania e Sicilia. Molto meglio va in Lombardia e nelle Marche, ferme al 6%, e in Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna e Abruzzo tra il 9% e il 10%. Ma non dite che si tratta di falsi invalidi. Guardi, io non ho mai parlato di falsi invalidi e non ne parlerò mai. Io ritengo che ci sia per tutte quante le cose un'epoca, oggi è finita un'epoca nella quale forse le ASL, le regioni, tutti quanti i soggetti erano un po' più generosi, e oggi noi siamo per la tutela dei veri invalidi, per dare la certezza di tempi e di prestazione ai veri invalidi. Questo è quello per il quale il governo e il Parlamento ci hanno investito, questo è quello che l'INPS sta facendo. I veri invalidi, quelli che nel caso di invalidità totale percepiscono 260 euro al mese e se è necessario perché non possono muoversi da soli, hanno diritto all'assegno di accompagnamento 487 euro mensili. Spesso però capita che ci voglia anche un anno per ottenere questi soldi. Io ho chiesto scusa oggi su Corriere della Sera, lo chiedo anche attraverso di voi. Noi abbiamo trovato una situazione dove c'era solamente la carta, ci sono state scaricate interi vagoni di cose che andavano smaltite. Il 2010 abbiamo quasi del tutto smaltito tutto l'arretrato, nel 2011 speriamo di andare a regime. È chiaro che in un sistema informatizzato, se solamente ancora oggi solo il 20% delle ASL dialoga in via telematica, questo qui ci crea un grosso problema, perché significano milioni di certificati, milioni di verbali fatti sulla carta che noi dobbiamo inserire nel nostro sistema, e questo purtroppo, ahimè, rallenta la macchina. Però io l'ho detto, 30 anni non si sanano in un anno, lo stiamo facendo con grande attenzione e con grande attenzione soprattutto dei veri invalidi. Ricorre nel discorso del presidente Mastrapasqua a una certa difficoltà di dialogo con le ASL. In passato tutto era in mano alle aziende sanitarie locali, ma anche oggi che l'ultima parola spetta all'INPS, la collaborazione stenta a decollare. Basti pensare che una pratica su due di quelle trasmesse dalle ASL viene corretta dall'INPS, che fatti i suoi controlli riduce la prestazione o la cancella. Io ho scritto ai presidenti delle regioni, vedo un clima migliore, sicuramente ci vorrà anche qui un po' più di tempo per creare la giusta collaborazione tra istituzioni del Paese. A me dispiace che poi tra una scarsa collaborazione tra enti pubblici chi ci debba rimettere il cittadino. L'INPS sta facendo di tutto per evitare questi fastidi. Italia in controluce. Lui era un manager di successo che un bel giorno ha mollato tutto per diventare un saggista e un romanziere di successo. Lui è Simone Perotti e questa è la sua storia. Più che un modello è quello che ho fatto io, diciamola così, che sembra un po' più vera. La banale considerazione del fatto che lavorare per produrre, per consumare non funzionava, io l'ho fatta per me, è stata valida per me e ha imposto a me di cambiare vita. La cosa interessante, forse come testimonianza, quindi non solo per me, è che si può fare, perché se si è sobri, se si ha un sogno da perseguire, come per me era la scrittura di romanzi, di racconti, di saggi, e quindi se si ha la voglia di tentare di essere il più simili possibile all'idea che si ha di sé, tutto questo è possibile. Non è vero che c'è un solo modo per vivere, non è vero che siamo costretti a consumare per produrre, per sprecare, questa è una bella scoperta. Tu eri un manager di successo, avevi lavorato con grandi gruppi economici e poi a un certo punto hai deciso di mollare tutto. Sì, diciamo che è stato possibile però non per il passato ma per il presente e il futuro, perché il segreto di questa scelta, a meno di chi non sia ricco di famiglia o abbia molte sostanze da parte, cosa che non era il mio caso, il segreto di questo è essere sobri, consumare poco. È possibile vivere anche senza dover necessariamente spendere denaro, tolta la casa e il cibo, tutto il resto sono quelli che in un'azienda si chiamerebbero i costi variabili, che non vuol dire che non bisogna acquistare più niente, però è possibile non acquistare quando non si hanno i denari per farlo, o acquistare oggetti sperando che siano utili e che contribuiscano al nostro benessere quando si hanno i soldi per farlo. Per cui, come dire, è lasciato un po' tutto a noi. Questo per me è stata una scoperta. Io ero convinto, come credo milioni di persone, che ci fosse un solo modo di vivere, che è quello dell'inserimento in una società dei consumi, del finto benessere, che però mi pare abbastanza fittizio. Quello che tu proponi è difficile esportarlo a tutti. Beh, io credo che tutti possano vivere in maniera più sobria, tutti dovrebbero vivere. Questo è un paese che si è malato di convinzione di ricchezza, ma è un paese povero, è sempre stato un paese povero, è un paese che non ha risorse, che si è drogato degli anni 80 e 90 e quindi oggi fa fatica a mantenere un tenore di vita che però non è strano oggi, era strano prima. Tutti parlano molto di crisi economica, io vivo già in crisi da molto tempo, ma è una crisi voluta, una crisi, come dire, scelta, e quindi ho il sospetto che questa crisi economica non mi farà cambiare nessuno dei miei comportamenti, perché erano già sobri prima e sono sobri adesso. Però se in fondo questa via fatta anche, diciamo col nome suo, di qualche rinuncia, c'è la libertà, c'è la possibilità di passare le proprie giornate senza il peso sul cuore di responsabilità non nostre, costretti a vivere in posti dove non vivremmo, costretti a vivere con persone che non vivremmo, con cui non vivremmo, insomma, se in fondo a questo c'è la libertà, vale la candela, ecco, come si dice. Come ti spieghi questo successo? Credo che sia dovuto a una tragica constatazione, che noi dovremmo essere la sesta, settima economia del mondo, uno dei paesi dove si vive meglio. Tutti parlano del problema della disoccupazione, che è naturalmente un problema grave a cui occorre dare non solo la nostra solidarietà ma anche sperare che lo Stato dia il proprio impegno e lavoro per risolverlo. Però nessuno parla del 91,5% che in questa società, che apparentemente è così benestante, e il 91,5% un lavoro bene o male ce l'ha, però non circola tanta gioia, non circola tanta felicità. Mi pare che ci sia una grossa crisi di schema di vita, di valori, di comportamenti, che anche quando sono tutti orientati a quello che la società chiede, il sistema chiede, non producono questo gran benessere. La gente lunedì mattina è angosciata di andare a lavorare, il venerdì è felice di smettere di farlo, ogni giorno sta accanto ad altra gente a tafanarsi l'un l'altro in lavori spesso e volentieri in cui nessuno si riconosce, il denaro che ne scaturisce serve solo per comprare chincaglieria ad alto prezzo, si vive in posti tutti ammassati dove le case costano tanto, insomma, in un contesto del genere, e se c'è qualcuno che parla di un modo diverso per vivere, è chiaro che un po' di interesse ci sia. Mi pare che, certo, è nata una community che va oltre il successo dei libri, quindi questo è un fenomeno ulteriore, però insomma mi pare che è il contesto a essere messo male, non tanto i libri a essere rivoluzionari. Ci sarebbero ancora nuovi modelli da esportare, in qualche modo qualche consiglio in questi ultimi anni della tua vita, delle tue scelte? Ma non lo so, sai, è diciamo, uscire dal sistema, rinunciando allo stipendio, alla carriera, a tutti i benefici dell'inserimento sociale, far questo è una cosa che non ha tanti precedenti, diciamo così, non ha, come si dice, giurisprudenza, e quindi sono tutte cose che io ho scritto scoprendole di volta in volta. Naturalmente io quello che dovevo dire adesso l'ho detto in questi tre libri. Io sono nato per scrivere romanzi, continuerò a farlo, forse scriverò ancora qualche saggio, però ho l'impressione che sarà solo il tempo a dirmi se c'è ancora qualcosa da raccontare. Quello che avviene sul mio sito, sul mio blog, è il racconto un po' quotidiano di come sta andando, e quello che mi pare molto interessante, soprattutto per chi ci va, è che tante storie vengono riportate dei lettori, sono migliaia di persone che raccontano storie diversissime dalla mia, ma orientate un po' allo stesso bisogno e con soluzioni assolutamente originali, e questo credo che renda interessante un po' tutta la faccenda. Vedremo se c'è ancora qualcosa da scrivere, sicuramente da scrivere romanzi sì, perché questa scelta l'ho fatta apposta per scrivere romanzi. La seconda edizione di Italia in Controluce, ricordo, radio24.it, il nostro sito dove potete sentire, ascoltare, scaricare tutte le puntate di Italia in Controluce, e poi Radio 24 Italia in Controluce su Facebook, in Controluce su Twitter, alla mail controluce@radio24.it. Torniamo domani alle 6.30 su Radio 24 con altre storie.